da destra uno squillo di tromba che i cuori fa tremar. A sinistra risponde uno squillo e so de domandar. Che cos'è, che cos'è, che cos'è, che cos'è? Han rapito la bella Rosina. Il bandito Peppe se l'è presa con sé e stanotte la vuole sposar. Ma lo squillo di tromba alla terra rimbombe una nuvola bianca compar. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo. Arrivano i nostri con in testa il generale. E il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolà. Arrivano i nostri giù dai monti del far west. Arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin e cin cian, si levano in piedi e battono le mani. Arrivano i nostri giù dai monti del far west. Arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin e cin cian, si levano in piedi e battono le mani. Spara, spara, galloppa, galloppa, il perfido Pepe. Poi con l'ultima palla s'accoppa, gridando a muerte, olè! Ma ad un gesto cotal scende ognun da cavalchina al capo e si leva il cappello. Poi Rosina si sa, vuole Pancio baciar e in paese ritorno si fa. Lo sceriffo arricciandosi un babbo dall'alto castello li vede arrivar. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale. E il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolà. Arrivano i nostri giù dai monti del far west. Arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin e cin cian, si levano in piedi e battono le mani. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo. Arrivano i nostri con in testa il generale. E il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolà. Arrivano i nostri giù dai monti del far west. Arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin e cin cia, si levano in piedi e battono le mani.